24 mattino di Alessandro Milan. Sono le 7:31 minuti, cari ascoltatori, ben ritrovati a 24 mattino. Per la qual puntata vi voglio lanciare subito il sondaggio di oggi. Ne parleremo alle 8:30. Ricordo anche i risultati del sondaggio di ieri. Lo faccio già alle 8:30, ma siccome mi scrivono in molti di ricordarlo sempre, lo faccio, giustamente. Ieri parlavamo di Roman Polanski sulla mobilitazione del cinema. Eravate d'accordo sulla mobilitazione per la sua liberazione? È stata una vittoria netta del no. L'82% di voi ha detto no. Oggi parliamo della manifestazione per la libertà di stampa indetta per domani dalla Federazione Nazionale della Stampa, il sindacato dei giornalisti. A Roma Berlusconi l'ha definita una farsa questa manifestazione. Vi chiediamo, siete d'accordo con questa definizione che ha dato il Presidente del Consiglio? Potete votare su radio24.it alla sezione bianco o nero o ilsole24ore.com. E ora andiamo per l'appunto alla stampa. Legal Mail, la migliore posta elettronica certificata. È un prodotto InfoCert. Vi presenta In Primo Piano. Le banche e la Daddario, questi sono i due temi che trovate sulle prime pagine dei giornali, vale a dire l'economia, oggi tra l'altro è il giorno dell'approvazione finale dello scudo fiscale e la vicenda di Patrizia Daddario ieri ad anno zero. Il Corriere della Sera, una rapida carrellata di titoli, escort in TV, premier indignato, la Daddario, Berlusconi sapeva chi ero, lite da Santoro. Per Repubblica, giornata di fuoco per la Rai, la Daddario, Berlusconi sapeva che era una escort, e questa è la frase più forte che ha detto. La Stampa, le banche si rafforzino da sole, e così anche il Sole 24 Ore, dunque la Stampa sceglie l'economia e il Sole 24 Ore anche. Draghi, più capitale in banca, Tremonti lancia i project bond, Marcegaglia, basta tasse d'impresa. E ancora poi il Messaggero sulla Daddario, Daddario in TV, l'ira di Berlusconi. C'è Libero, la puttanata di anno zero. E vabbè, insomma, il tenore di chi ha scelto le aperture sulla Daddario è questo. Partiamo proprio da questo tema, insomma, perché occupa tutte le pagine più influenti dei quotidiani generalisti. Pagina 3 del Corriere della Sera, Berlusconi davanti alla TV, operazione politica indegna. Scrive Marco Galluzzo, lo riferisce Maurizio Belpietro, che è andato a trovarlo nel pomeriggio. Belpietro è il direttore di Libero, ieri era tra l'altro proprio ad anno zero. Berlusconi ritiene che la trasmissione di anno zero sia un'operazione politica indegna, fatta per fini che nulla hanno a che fare col giornalismo d'inchiesta o col dovere di informazione, ma che attengono alla volontà di infangare il Presidente del Consiglio. E poi tutta una serie di ricostruzioni, per esempio sul Corriere della Sera si parla del pressing di Letta per la linea morbida e Masi dà l'ok. Perché? Perché si è iniziata la giornata di ieri pensando questo tam tam che c'era a Viale Mazzini. Vedrete che il direttore generale Masi cancellerà l'invito di Michele Santoro a Patrizia Daddario, utilizzerà come strumento la diffida dei legali di Tarantini. Invece non è andata così. Sulla Repubblica si starebbe già preparando la contromossa, a meno leggendo pagina 3. Il premier prepara la contromossa con Vespa. Non possiamo lasciargli il campo libero. Una vigilia vissuta sul filo di nervi, con lo spettro di Patrizia Daddario che si aggira nelle stanze di Palazzo Grazioli. La Rai non può invitare una signora che chiaramente voleva ricattare il Presidente del Consiglio, avrebbe sibilato il Cavaliere e i suoi interlocutori. E Santoro, che poi in onda ha detto l'azienda mi dica se posso andare in onda, il direttore di Rai 2 Leo Fredi, da noi solo un consiglio, e dunque la decisione di andare in onda. Sulla Stampa, Berlusconi indignato per il fango su di me. Sulla Stampa tra l'altro c'è la ricostruzione di quella che sarebbe invece già la prossima puntata, la puntata di giovedì prossimo, anche questa sicuramente fa discutere. E ora si prepara una puntata su mafia e politici, dal sacco di Palermo alle stragi. Dopo Patrizia Daddario, scrive la Stampa, Massimo Ciancimino. È questo il prossimo colpo a cui starebbe lavorando Michele Santoro per la puntata di anno zero di giovedì prossimo. Massimo Ciancimino, vale a dire il figlio dell'ex sindaco di Palermo. Lo staff di Santoro ha avviato i contatti già con gli avvocati di Ciancimino. Una risposta definitiva ancora non ci sarebbe. Più in generale si parlerebbe di rapporti tra Cosa Nostra e politica. In quest'ambito, dalle rivelazioni di Ciancimino spunterebbe Berlusconi. Ancora Berlusconi. Questo dunque sarebbe il prossimo fronte aperto sul tema anno zero. Tra l'altro è indicativo, oggi lo voglio citare, l'editoriale di prima pagina del Corriere della Sera, firma Sergio Romano, due partiti contrapposti. Scrive Sergio Romano: esistono problemi nazionali e internazionali da cui dipende la vita degli italiani e dei loro figli. Le elezioni tedesche, il referendum irlandese, il mercato dell'energia, la difesa dell'ambiente, la costruzione della TAV, il rapporto tra banche e imprese, la crisi del latte, la politica agricola comune, le esportazioni, l'occupazione, il passaggio dal G8 al G20, la guerra in Afghanistan, la politica economica e monetaria del governo cinese. Così, sono questioni che cito alla rinfusa, che ci concernono. Occorre che l'Italia sappia come affrontarle in un confronto di idee. Ma questo confronto, scrive Romano, non c'è. O si svolge solo occasionalmente tra poche persone di buona volontà ai margini di una scena pressoché interamente occupata da un ininterrotto cabaret politico con un copione di lazzi, insulti, pettegolezzi, storie lascive, accuse sanguinose e querele. Si direbbe che una parte dell'Italia abbia smarrito il senso della realtà e preferisca lo spettacolo di una guerra civile mediatica alla soluzione dei suoi problemi. Poi Sergio Romano scrive: la colpa è di entrambe le parti politiche, e conclude: gli italiani, anche quando vorrebbero occuparsi di altre cose, sono finiti tra due contendenti che si detestano, ma giocano una partita in cui ciascuno dei due ha bisogno dell'altro, con due risultati. In primo luogo, l'Italia sta rapidamente perdendo credito agli occhi del mondo. In secondo luogo, parla di tutto fuorché di se stessa e dei suoi problemi. E tra l'altro dicevamo del titolo di Libero, la puttanata di anno zero, con un commento del vice direttore Mario Secchi, che dice: alla fine lo show del furbo Santoro c'è stato, il Cavaliere Nero non ha censurato un bel niente e la puttanata in diretta è andata in onda. Diciamolo subito, Santoro ripubblica Repubblica, la replica in TV, e lo fa bene, meglio del giornale partito, perché la trasmissione è attesi, un trappolone mediatico costruito con perfidia catodica. Visione contrapposta quella del Fatto, nel Fatto, che apre proprio su questo: la RAI blocca la Daddario, Santoro va in onda lo stesso, si ricostruisce insomma tutta la vicenda, la diffida dell'ufficio legale di Rai 2, il braccio di ferro, e poi conclude il Fatto con un diciamo, non so se è una minaccia o comunque quello che si profila all'orizzonte, possibili ritorsioni ora dell'azienda nei confronti ovviamente della trasmissione. Parliamo, lasciamo questo tema, che però trovate ampiamente coperto su tutti i giornali, veniamo a quelli economici di temi. Come detto, l'apertura del Sole 24 Ore: Draghi più capitale in banca. Oggi voglio ricordare anche appunto il giorno dell'approvazione, il voto è slittato oggi, dello scudo fiscale. Lo voglio ricordare anche perché proprio oggi in edicola trovate una guida pratica scudo fiscale allegata al Sole 24 Ore, una guida pratica di 104 pagine per spiegare tutte le regole per il rientro e la regolarizzazione dei capitali, degli immobili e delle attività patrimoniali all'estero. La trovate appunto in edicola. Slitta il sì finale allo scudo, questo è il titolo del Sole 24 Ore per l'appunto. Tra l'altro c'è una foto, la foto la troverete su tutti i giornali, addirittura è l'apertura con foto a quasi totalità di pagina del Quotidiano Nazionale con il titolo Il Picciotto. La foto qual è? Forse l'avete vista anche nei giornali, è quella del leader dell'Italia dei Valori Antonio Di Pietro, che si è presentato con Coppola e sigaro pendente dalla bocca, dicendo insomma è un provvedimento che è un favore alla mafia. Peraltro proprio sul Sole 24 Ore c'è l'allarme di Direzione Nazionale Antimafia e Procure, laverà in arcofondi, tra l'altro il nostro Roberto Galullo, sempre molto attento anche a questi temi, che ne scrive proprio sul Sole 24 Ore e dice: lo scudo fiscale rischia di lavare miliardi che le cosche tengono non solo all'estero ma soprattutto in Italia. È la denuncia della Direzione Nazionale Antimafia, in primo luogo del sostituto procuratore Alberto Cisterna, che dice: qualunque cosca, clan o 'ndrina che abbia liquidità farà presentare agli sportelli creditizi un proprio prestanome di fiducia e chiederà di aprire uno o più conti correnti dichiarando di aver rimpatriato i capitali dal paradiso fiscale X o Y. La banca o l'intermediatore finanziario non hanno l'obbligo di verificare che quelle risorse siano frutto di un rimpatrio. Motivo per il quale da domani Cosa Nostra, 'Ndrangheta, Casalesi, mafie straniere, questo dice Cisterna, che si avvalgono di fior di professionisti potranno pianificare la verginità di immense risorse. Questo è l'allarme lanciato dalla Procura Nazionale Antimafia. Dicevamo il giorno del voto finale, sulla stampa è anche ricostruito come Napolitano dovrà firmare, il Presidente della Repubblica Napolitano. Oggi entro mezzanotte va fatta la firma, i tempi sono stretti. Napolitano tra l'altro domani partirà parte oggi credo per Potenza, e dunque da lì apporrà la sua firma e scrive Repubblica, e scrive la stampa, scusate, da Napolitano una firma con amarezza. Incostituzionale, ditemi dove. Che succede? Oggi sarà il voto, subito partirà un messo che lo raggiungerà a Potenza. Si tratta ovviamente di un testo noto da tempo, ma va apposta la firma, ovviamente autografa, entro la mezzanotte di oggi. I tempi sono stretti. L'altro tema economico è quello appunto dell'apertura del Sole 24 Ore. Draghi più capitale in banca, così ha denunciato in questo caso come presidente del Financial Stability Board. E gran parte dei profitti, ha detto Draghi, sono ottenuti grazie alle misure dei governi nazionali. È la pagina 5 del Sole 24 Ore. L'Unione Europea promuove le banche, e poi dicevamo anche l'appello del presidente di Confindustria Marcegaglia: ora giù le tasse. Questo si legge a pagina 3, soprattutto perché il raffronto alla Francia, dove dice Marcegaglia si è deciso di eliminare l'IRAP a carico delle imprese, e un'attesa di decisione simile anche in Germania, ecco allora che ora le tasse, è l'appello del presidente di Confindustria per non far perdere ovviamente alle imprese la competitività rispetto a questi due paesi. Dicevamo che domani sono attese, immagino, centinaia di migliaia di persone, poi lo vedremo, insomma, ma non è la questione del balletto delle cifre, per la manifestazione per la libertà di stampa indetta dal sindacato dei giornalisti. È anche il tema del sondaggio nostro di oggi, che potete già votare e che tratteremo poi alle 8.30, vale a dire, la domanda che vi poniamo è molto semplice: Berlusconi ha definito una farsa questa manifestazione per la libertà di stampa, vi chiediamo che ne pensate, se siete d'accordo sì o no. Voglio partire da Roberto Saviano, che oggi firma in prima pagina di Repubblica un articolo dal titolo «Cosa vuol dire libertà di stampa?». Molti si chiederanno come sia possibile che in Italia si manifesti per la libertà di stampa, scrive Saviano. Da noi non è compromessa come in Cina, Cuba, in Birmania, in Iran. Libertà di poter, ma oggi manifestare o alzare la propria voce in nome della libertà di stampa vuol dire altro. Libertà di poter fare il proprio lavoro senza essere attaccati sul piano personale, senza un clima di minaccia. Oggi chiunque decida di prendere una posizione sa che potrà avere contro non un'opinione opposta, ma una campagna che mira al discredito totale di chi la esprime. Qualsiasi voce critica sa di potersi aspettare ritorsioni. Libertà di stampa significa libertà di non avere la vita distrutta, di non dover dare le dimissioni, di non veder da un giorno all'altro troncato un percorso professionale per un atto di parola, come è accaduto a Dino Boffo. E poi scrive più avanti Saviano: il paese sta diventando cattivo, il nemico è chi ti è a fianco, chi riesce a realizzarsi. Qualunque forma di piccola carriera, minimo successo, perfino un lavoro stabile crea invidia. E questo perché quelli che erano diritti sono stati ridotti quasi sempre a privilegi. Questa manifestazione non dovrebbe veramente avere colore politico, anzi invito ad aderirvi tutti i giornalisti che non si considerano di sinistra, ma credono che la libertà di stampa oggi significa sapersi tutelati dal rischio di aggressione personale, condizione che dovrebbe essere garantita a tutti. E poi conclude Saviano: vorrei che tutti coloro che scendono in piazza lo facessero anche in nome di chi in Italia e nel mondo ha pagato con la vita per ogni cosa che ha scritto e fatto a servizio di un'informazione libera. In nome di Cristian Poveda, ucciso di recente in Salvador per aver diretto un reportage sulle Maras, le ferocissime gang centroamericane. In nome di Anna Politkovskaya e Natalia Estemirova, ammazzate in Russia per le loro battaglie di verità sulla Cecenia. E di tutti i giornalisti che rischiano la vita, in mondi meno liberi. Loro guardano alla libertà di stampa dell'Occidente come un faro, un esempio, un sogno da conquistare. Facciamo in modo che in Italia quel sogno non sia sporcato. Questo è Roberto Saviano, l'autore di Gomorra, oggi su Repubblica. In primo piano. I tempi lunghi del Parlamento, dagli eletti soltanto 15 leggi. E questa è un'inchiesta che pubblica oggi il Corriere della Sera, che è andato a scandagliare tutto il lavoro dei parlamentari. per capire che gran parte dell'attività dei parlamentari è dedicata alla verifica di provvedimenti dell'esecutivo. Sostanzialmente su 102 leggi approvate, appena 15 sono state approvate dal Parlamento. Sono di proposta del Parlamento. Per il resto ci sono 4.200 proposte presentate da deputati e senatori, ma la maggior parte si arena nell'attività parlamentare. Tra l'altro, tra le 15 leggi approvate ci sono la valorizzazione dell'Abbazia della Santissima Trinità di Cava dei Tirreni, la candidatura dell'Italia come paese ospitante del campionato mondiale di rugby. Insomma, non leggi fondamentali che sono il fondamento del nostro paese. E poi anche il lavoro. La settimana tipo comincia il lunedì, se c'è la commissione. Si conclude il giovedì. Rare le sedute negli altri giorni. Insomma, un qualcosa che sull'onda della casta potrebbe far arrabbiare qualcuno. A livello di politici, tra l'altro, oggi troverete il ministro Stefania Prestigiacomo, oggi citata su tutti i giornali. Perché? Perché sarebbe indagata per peculato. Leggo quello che riporta il Corriere della Sera, scelgo il Corriere perché il Corriere l'ha intervista. L'accusa o l'indagine sarebbe su dello shopping fatto con la carta di credito del Ministero. Ebbene, dice Stefania Prestigiacomo, intervistata da Virginia Piccolillo, ma che è un tranello? Quale peculato? Io lo shopping lo faccio a spese mie, questo è un tranello. Non ha mai usato la carta del Ministero per acquisti suoi, ma per carità, io usavo la carta per pagare qualche piccolo albergo, piccole spese, tutte documentate, tutte alla luce del sole. Lo shopping? Mai. Esclude anche errori? Può essere capitato perché la tengo nel portafogli, ma ho immediatamente rimborsato il Ministero. Di che si trattava? Una volta, per esempio, ho sbagliato, l'ho usata a New York per una spesa di $11 che ho immediatamente restituito. E gli acquisti di pelletteria femminile? Sto verificando, potrebbero essere stati omaggi di rappresentanza, ma non acquisti personali. Questa sarebbe l'accusa: abiti di Armani, borse griffate, perfino una pelliccia pagate con la carta di credito del Ministero da parte del ministro Stefania Prestigiacomo, che si difende così. Voglio citare, prendendo spunto da una notizia che trovate sempre a pagina 21 sul Corriere della Sera, suicidio con testamento biologico e i medici la lasciano morire. Cioè, che succede? Che in Gran Bretagna, in Gran Bretagna, una persona si è voluta suicidare e aveva lasciato detto non intervenite ai medici, e i medici non sono intervenuti perché potevano salvarla ma temevano di essere incriminati per violenza. Perché viene citato il testamento biologico in questo articolo, nel senso che sono le volontà espresse da questa persona, e oggi il Sole 24 Ore ospita in prima pagina, tra l'altro, due commenti con visioni contrapposte, si direbbe uno laico e uno dal punto di vista invece cattolico. Sono i commenti di Riccardo Chiaberge e Davide Rondoni proprio sul tema del testamento biologico. Sono due letture molto interessanti che vi sottopongo, sono molto lunghe, dunque le potrete leggere approfonditamente, ma sono molto interessanti perché analizzano, insomma, il tema del sondino dell'alimentazione artificiale, che nella legge approvata al Senato, che andrà in discussione presto alla Camera, è obbligatorio sempre e comunque. La posizione, diciamo, contraria invece a favore, sono appunto contraria a quella di Riccardo Chiaberge, diciamo no al sondino di Stato, questo è il titolo, mentre Quando si muore non si muore soli, questo è l'articolo di Davide Rondoni, li trovate sul Sole 24 Ore, davvero è la lettura secondo me più interessante della giornata. Voglio ricordare anche che oggi è il giorno della scelta delle Olimpiadi 2016. La scelta pare soprattutto tra Chicago e Rio de Janeiro, tra Obama e Lula, e anche il nostro Radio Day, nel senso che seguiremo tutta la giornata passo passo fino alla proclamazione di chi ospiterà le Olimpiadi del 2016. La più dura è il riformista su Barack Obama, che è a Copenaghen dove si assegna la cosa. Dice: sveglia Barack, la tua Chicago ormai è a pezzi. Questo è un titolo del riformista Maria Teresa Cometto, che dice: c'è una violenza incredibile ormai a Chicago, mentre Barack Obama e Michelle Obama sono a Copenaghen a perorare la scelta di Chicago. Diciamo, la comunità nera di Southside a Chicago piange il terzo adolescente ammazzato dall'inizio dell'anno scolastico. Secondo il Chicago Tribune solo il 47% degli abitanti di Chicago vorrebbe le Olimpiadi. Insomma, Obama va a perorare la causa, ma gli abitanti o a Chicago o gli abitanti di Chicago dicono qua i problemi sembrano ben altri. Mi fermo qui solo con la segnalazione di sport che trovate ovunque. Adriano Shock, ubriaco all'Inter. Adriano, oggi a 27 anni, racconta la rivista brasiliana R7 tutta la sua vicenda. Dopo la morte di mio padre sono caduto in una depressione, riuscivo a curare solo con l'alcol. Mi presentavo sempre ubriaco agli allenamenti dell'Inter, mi mandavano a dormire in infermeria dicendo che avevo problemi muscolari ai giornalisti. E insomma, tornai poi per Mourinho dopo Mancini, ma non ce la feci, ricominciai di nuovo con le feste, le donne, l'alcol. Insomma, il racconto di un ragazzo triste che sicuramente poteva dare tantissimo al calcio, ma è stato preda di altre cose. Ci fermiamo qui. A 8.30 c'è il sondaggio, ripartiamo anche alle 8.15 con Soldi e Dintorni, vi chiediamo della libertà di stampa, Berlusconi la definisce una farsa la manifestazione, siete d'accordo? Chiamate già all'800 24 00 24 che poi ne parliamo. Alle 8.15 minuti siamo qua, ben ritrovati con 24 Mattino e diamo spazio all'economia. Nuove stampanti HP Office Jet Pro fino a 75 euro di rimborso. Scopri come su radio.hp.com. Vi presenta Soldi e Dintorni. Deborah Rosciani, buongiorno. Facendo i gargarismi stamattina. Sì. Allora, comunichiamo a Peter in regia che ha il microfono numero 5. Numero 5. Eh sì, perché qui si è scollato il talloncino con il sì, numero. Vabbè, dopo dice che perdiamo pezzi, insomma, non è una bella immagine. Ma un piccolo microfogliettino di carta, quindi niente di grave, ce lo rimetto dopo. Va bene. A spese tue, Certamente. Bene, di che parliamo oggi? Allora, parliamo di un tema molto interessante, perché forse, Alessandro, te lo ricorderai, quello che vogliamo affrontare stamattina è stato il primo argomento, il tema della prima puntata di Soldi e Dintorni dello scorso gennaio, quando la crisi che ancora adesso stiamo affrontando cominciava a mordere seriamente e anche le amministrazioni comunali e locali avevano cominciato a prendere individualmente dei provvedimenti di sostegno al reddito familiare, di sostegno alle imprese locali. È un tema che ci era piaciuto molto perché, banalmente per modo di dire, ci aveva permesso anche di segnalare questi interventi delle amministrazioni locali, dato che a volte non si conoscono e la gente non ne approfitta, non si rivolge al proprio comune per capire come può alleviare il peso della crisi. Allora oggi noi torniamo sull'argomento perché proprio in questi giorni, tra ieri e oggi a Viareggio, è in corso un incontro dal titolo Il federalismo alla prova dei fatti, organizzato dalla Lega delle Autonomie, dove il presidente, l'onorevole Oriano Giovanelli, ha presentato proprio questa indagine su come si stanno muovendo gli enti locali in questo periodo di crisi così importante. Presidente Giovanelli, buongiorno, benvenuto a Soldi e Dintorni. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Allora, noi avevamo avuto modo di spiegare nei mesi scorsi appunto che complessivamente, globalmente, i principali campi di intervento da parte degli enti locali erano stati tre: sostegno alle famiglie, sostegno alle imprese e ammortizzatori sociali. Ci può intanto spiegare qual è il punto della situazione secondo i dati presentati appunto nell'ambito della vostra indagine, che peraltro si può anche trovare sul sito della Lega delle Autonomie? Ce ne sono due, una suddivisa per regioni e una indagine suddivisa invece per comuni. Presidente. Ma noi abbiamo voluto andare a vedere la reattività, insomma, degli enti locali e delle regioni di fronte alla crisi, anche perché c'era stata una sorta di esclusione, quasi non se ne parlava, insomma, del ruolo che potevano avere, e abbiamo scoperto, non avevamo dubbi, che c'è stato un bel movimento, insomma, ecco, noi abbiamo fatto questa indagine, non è una grandissima cosa, però è un fatto molto significativo, sono tantissimi i comuni che si sono mossi e anche le regioni hanno fatto provvedimenti organici molto importanti. Come diceva lei, i campi di intervento sono quelli, insomma, ammortizzatori sociali, sostegno al reddito e molto spesso anche sostegno al credito. Insomma. Infatti i comuni, insomma, si sono rimboccati le maniche, storicamente hanno poche risorse per gestire l'ordinaria amministrazione, figuriamoci quanto è stato difficile gestire, Presidente, questa situazione di straordinaria amministrazione. E per quello che riguarda i provvedimenti che sono stati organizzati, individuati per le famiglie, quali sono, secondo l'indagine che appunto avete presentato, quelli che sono stati particolarmente apprezzati e fruiti dalle dalle famiglie. E gli esempi ne abbiamo fatti tanti, anzi ne facciamo tanti. C'è stato un dossier pubblicato nei giorni scorsi da Repubblica, bonus prestiti, aiuti in bolletta, così i comuni sfidano la crisi, proprio con qualche esempio di qualche ente locale e gli interventi che sono stati organizzati. Ecco, le famiglie come si sono orientate? Per quello che ne sappiamo noi, c'è sempre un problema, come diceva lei giustamente, che è quello di far sapere che queste risorse ci sono, che queste misure ci sono. Mi pare di poter dire che l'intervento più significativo, questo rientrava già sostanzialmente in operazioni che l'amministrazione comunale faceva, le ha estese, riguardano il sostegno al pagamento delle bollette. Sono sempre di più quelli che si presentano al comune o si presentano alle Caritas, perché non ce la fanno a pagare la rata del gas piuttosto che la rata dell'affitto, e questo è il fondo, diciamo, secondo il nostro punto di vista, che è stato maggiormente impegnato, diciamo, ecco. Ho visto che molti comuni si sono adoperati anche per potenziare, per esempio, determinati servizi come gli asili, le scuole materne e gli asili nido, proprio per permettere magari a quelle famiglie all'interno delle quali si poteva verificare la perdita di un posto di lavoro di avere comunque, come dire, un appoggio per potersi riorganizzare anche proprio dal punto di vista della vita lavorativa, Presidente. Sì, perché come noi insistiamo da tempo, la efficacia di un sistema locale non sta solo nella vivacità e nella forza delle proprie imprese, ma nella capacità di mettere a sostegno delle imprese anche una rete di servizi che funzioni, e in questi casi ovviamente è venuto fuori che i comuni si sono impegnati per cercare di estendere la possibilità di accesso agli asili nido, e devo dire che questo lo fanno spesso in concertazione con le regioni, perché dove c'è una misura del comune in questo senso, se lei va a vedere, c'è una misura alle spalle, diciamo così, di una regione che ha impegnato delle risorse verso questo filone di intervento. Sicuramente più complesso è il campo degli interventi che è ancora necessario mettere in atto per il sostegno alle imprese, per superare la stretta sui prestiti e i finanziamenti, un tema del quale non facciamo altro che parlare. Ecco, da questo punto di vista è stato più impegnativo il lavoro che gli enti locali hanno dovuto predisporre e organizzare in questi mesi, Presidente? Io ho notato un grandissimo attivismo degli enti locali, e questo dimostra la vivacità del nostro sistema locale e l'importanza anche di un disegno federalista che li valorizzi. Si sono attivati in sede locale momenti di governance della crisi, tavoli di concertazione assieme a sindacati, assieme a banche, assieme a organizzazioni di categoria dei lavoratori autonomi piuttosto che delle imprese. C'è ad esempio una misura che le regioni in particolare hanno favorito, che è quella dell'anticipazione di quanto i lavoratori si attendono in termini di cassa integrazione, ammortizzatori sociali, no? Che tardano, perché si fa presto a dire c'è la cassa integrazione, poi si va a vedere, magari quei denari arrivano dopo 5-6 mesi, e ci sono molti accordi che testimoniano come gli enti locali si siano attivati con le banche, in particolare con le banche locali, per anticipare queste somme. Questo vale anche per l'accesso al credito delle aziende artigiane. Ci sono diversi interventi previsti dai comuni che vanno a finanziare i Confidi, perché sono misure, diciamo così, alternative o comunque di sostegno alle modalità ordinarie di ricorso al credito. Ecco, infatti, allora, complessivamente, visto che stiamo parlando di una situazione straordinaria, è chiaro che gli enti locali hanno dovuto predisporre anche bilanci, immagino, Presidente, straordinari, dai quali poi dovranno rientrare. Oggi si fa un gran parlare della cosiddetta exit strategy per i governi, cioè quella strategia di uscita da tutte queste politiche che sono state messe in atto in questo periodo per aiutare le imprese, per aiutare le banche e quant'altro. Gli enti locali, secondo lei, come usciranno da questa situazione straordinaria? Non è che un domani, per risollevare, per ripianare i bilanci, aumenteranno, per esempio, non lo so, le tasse sui rifiuti, in modo tale che i bilanci possano tornare a respirare, visti gli interventi che si sono dovuti mettere in campo adesso per le famiglie e per le imprese? Non credo proprio che ci sarà questo rapporto di causa-effetto, insomma. E le modalità con le quali i comuni devono gestire i bilanci sono talmente rigorose e devono tenere talmente conto dell'equilibrio complessivo complessivo del bilancio che non ha paragoni con, né con quei bilanci delle regioni né con i bilanci dello Stato. Quindi i comuni da questo punto di vista sono virtuosi. Se lei pensa che il saldo finanziario dei comuni è attivo nel 2008 per 1 miliardo di euro, che i comuni hanno contribuito alla riduzione del debito pubblico per 1 miliardo e 300 milioni di euro, che il loro stock di debito è soltanto il 2,7% del debito complessivo della pubblica amministrazione. Quindi i comuni, non dico che sono tutti virtuosi, tutti sani, tutti bravi, tutti belli, però sono gestiti con rigore, insomma. Presidente, lei è stato sindaco di Pesaro dal 92 al 2004, quindi ha già un'esperienza diretta anche come primo cittadino, come amministratore, e in virtù di questo, per esempio, nella sua città che cosa è successo? La mia città è stato il primo comune, mi pare, nelle Marche, che ha preso una misura di mettere a disposizione 150.000 euro, d'accordo, con i sindacati per sostenere l'emergenza, cioè senza particolari criteri, chi avesse bisogno, insomma, sostanzialmente di essere aiutato appunto nella fase acuta della crisi, per appunto per le incombenze che dicevamo prima, pagamenti di tariffe e di bollette, poteva ricorrere a questo fondo. Mi pare che sia stato il primo comune nelle Marche che abbiamo mosso. Non ho avuto modo di verificarlo, però insomma ovviamente le credo assolutamente. Un'ultima informazione, ovviamente noi siamo abituati a dare un taglio molto pratico alla nostra trasmissione. Presidente Giovannelli, come fa il cittadino, qualora si fosse interessato alla, come dire, misura di sostegno che il comune predispone, e magari lo viene a sapere solo adesso in virtù di quello che stiamo raccontando questa mattina, come fa il cittadino a reperire informazioni che di certo non gli bussano alla porta di casa? Innanzitutto, queste misure, come sono nel sito della Lega delle Autonomie, sono nei siti dei singoli enti e delle singole regioni. Quindi c'è un livello di trasparenza abbastanza. Poi esiste sempre nei comuni, diciamo così, più piccoli, esiste il rapporto personale, per fortuna ancora, la possibilità di chiedere, altrimenti ci sono gli uffici di relazione con il pubblico, che nei comuni più grandi sono assolutamente efficienti, insomma, e quindi funzionano da questo punto di vista. Benissimo, la ringrazio, le auguro buona giornata, la seconda giornata peraltro di lavori dell'appuntamento annuale sulla finanza territoriale a Viareggio, il federalismo alla prova dei fatti, il presidente di Lega Autonomie Oriano Giovannelli. Alessandro Milan. Alessandro. Eccoci qua allora. Oggi esce la guida pratica sullo scudo fiscale del Sole 24 ore, noi l'andiamo a leggere in diretta. Questa oggi per i nostri ascoltatori, sì, esatto. L'abbiamo già in realtà anche poi detto, esatto, cercheremo oggi di capire come si stanno muovendo le banche per affrontare, insomma, questa che per loro è anche una bella opportunità, quella del rientro dei capitali. E certo. Le 8:33 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Le notizie in primo piano sono queste: un violento nubifragio nel Messinese ha causato almeno 4 morti, secondo la Protezione Civile regionale. Sarebbero però diversi i dispersi, diverse le case crollate nella frazione di Giampilieri, a circa 20 km a sud del capoluogo. La partecipazione di Patrizia Daddario ad Anno Zero, Berlusconi si dice indignato, secondo quanto ha riferito il direttore di Libero Maurizio Belpietro, che lo ha incontrato. La Daddario, apparsa per la prima volta in TV, ha detto, tra l'altro: il presidente sapeva che ero una escort. Oggi l'approvazione finale e definitiva dello scudo fiscale, già in serata dovrebbe arrivare la firma del presidente della Repubblica Napolitano, e l'Italia dei Valori attacca: è un favore alla mafia. Infine lo sport, il calcio, ieri tre italiane impegnate in Europa League, bene le romane, la Roma ha battuto il CSKA di Sofia 2-0, la Lazio ha vinto a Sofia contro Levski 4-0, perde invece il Genoa 3-2 a Valencia. E allora, detto che il sondaggio di ieri, quello su Roman Polanski, ha visto nettamente vincere i no all'appello per la liberazione del mondo del cinema per Roman Polanski, oggi parliamo di libertà di stampa. Bianco o nero? Il sondaggio di Radio 24. Se volete intervenire, chiamate l'800 24 0024, ma non per votare, la nostra povera Rosa è subissata, non si vota lì, si vota sul sito radio24.it o ilsole24ore.com. La domanda che vi facciamo, ve la faccio dopo che vi faccio ascoltare quello che ha detto il Presidente del Consiglio due giorni fa in un'intervista a Sky. In Italia c'è una tale libertà di stampa da non poter essere confrontata con la libertà di stampa esistente in nessun altro paese. C'è più libertà di stampa in Italia che in qualunque altro paese. Tutte le persone di buon senso questo lo sanno, quella manifestazione è una farsa che ci fa del male nei confronti degli altri paesi, e credo che questa anti-italianità che è alla base di tante posizioni che assumono certi giornali e certe formazioni politiche faccia davvero male al paese. Allora, Berlusconi dice è una farsa quella manifestazione, che ne pensate, siete d'accordo oppure no? Io voglio salutare e partire da Milena Gabanelli. Buongiorno Milena. Buongiorno. Ideatrice, conduttrice di Report, insomma non ha bisogno di grandi presentazioni. Milena Gabanelli ha aderito alla manifestazione, se non sbaglio? Sì. Però non sarà in piazza, ma per motivi diversi? No, perché l'11 riprendiamo il programma, io non abito a Roma e sono da un'altra parte, non posso sottrarre tempo ed energia così urgente in questo momento. Allora, il problema qual è, Milena? Tra l'altro Milena Gabanelli un paio di giorni fa ha scritto una lettera molto precisa sulla tua posizione riguardo al tema. Il problema è quello dei politici, della pressione politica sulla stampa, o i politici fanno il loro mestiere, insomma, di pressione? Allora, parlo per me, ovviamente, in base alla mia esperienza personale, che è cominciata in altri paesi. Io ho cominciato a fare la giornalista in Italia dopo averla fatta in altri paesi, e quindi insomma consiglierei al Premier, ecco, di non allargarsi troppo, nel senso di parlare per le cose che conosce molto bene, certamente ne conosce tante, però su com'è il mondo del giornalismo, magari non avendolo praticato, ecco, forse non ha un quadro chiarissimo. Io credo questo, che tutti i politici di tutti i paesi esercitano le loro pressioni sui giornalisti per indirizzare, condizionare, limitare, a vari gradi e a vari livelli, dipende dall'interlocutore che trovi. Ora, diciamo che in Italia si trovano interlocutori particolarmente asserviti, e quindi questo fatto, insomma, poi produce certi risultati. Però il problema, secondo me, è più che la politica, che in questo momento è particolarmente anomala e fuori discussione, sta nella qualità dei giornalisti, nella qualità dei direttori. Quindi nella classe, la classe giornalistica, questo è il problema, cioè l'interlocutore qui, i politici. E poi c'è un problema normativo, ovvero nel momento in cui chi che sia si sente autorizzato a trascinarti in tribunale anche in assenza del fatto diffamatorio, ma solo per intimidire il giornalista, oppure per dimostrare al suo entourage che lui ha reagito a qualcosa, a una critica magari molto aspra, ti fa cause diffamatorie per centinaia di migliaia di euro, e questo impedisce, sommando questa pluralità di cause che per chi fa un tipo di giornalismo investigativo, di inchiesta o comunque di critica, alla fine diventa così oneroso che puoi essere governato da un principe svedese, ma se tu ti trovi 100 cause, devi accantonare un sacco di soldi nel fondo rischi per n anni, perché le cause civili arrivano a durare 10 anni. L'anomalia più pesante, secondo me, sta lì. È quella, infatti tu l'hai scritto nel Corriere della Sera, insomma, io nel senso, tu hai 30 cause, magari uno le può vincere anche tutte alla fine, però intanto bisogna accantonare soldi, bisogna per sì, quelli che riguardano gli editori. Perché non si sceglie più la strada della querela, dove c'è un PM che fa da sbarramento e valuta se quello che hai detto è quello, il signore che chiede la tua condanna per diffamazione, se entra nel merito per capire se il fatto sussiste, o archivia, o si chiede il risarcimento civile. Nel processo civile in maniera automatica. Lei domani mattina mi incontra per strada, io le dico buongiorno, lei interpreta questo buongiorno in maniera particolarmente offensiva, nessuno le vieta di trascinarmi in tribunale. E cosa rischia? di pagarsi l'avvocato, punto. Allora, mentre nel diritto anglossassone la sanzione per le cause temerarie è molto cioè pesante. Uno fa una causa che poi non ha senso, mi chiede 10 e poi dopo se non ha senso rischia di pagarli lui, perché rischi di pagare un multiplo. Allora, io voglio salutare anche Franco Siddi, che è il segretario generale dell'FNSI, il sindacato. Buongiorno Siddi. Buongiorno. E Pierluigi Magnaschi, editorialista del gruppo Class di Italia Oggi, Milano Finanza. È stato anche buongiorno. Direttore dell'ANSA. Buongiorno Magnaschi. Buongiorno. La domanda secca, dovessimo dire, perché molti dicono, ma chiedete se c'è o no libertà di stampa in Italia. Secondo me, voglio dire, oggi Roberto Saviano è illuminante. Non siamo in Birmania, non siamo in Iran, fortunatamente non siamo in questi paesi. Quindi la domanda è un po' retorica. Semmai uno può dire la libertà di stampa a rischio oppure no, ecco, questo è il tema. Però glielo chiedo, Magnaschi, a domanda secca che si risponde. Come diceva la Gabanelli, un giornalista deve rispondere della sua capacità di resistere alle pressioni. Oggi in Italia esiste la libertà di stampa. Una ultimissima e per me confortante notizia è dovuta al fatto che è uscito Il Fatto, non solo il quotidiano quindi di Padellaro, un quotidiano giustizialista orientato a sinistra, ma non solo è uscito, ma è uscito senza chiedere i contributi pubblici. Questa è una bella notizia. Non solo è uscito senza contributi pubblici, ma anche ha avuto successo e mi auguro che prosegua. Questo è il segno della libertà di stampa. Che poi la libertà di stampa debba essere conquistata sul campo tutti i giorni, con il concorso di tutti, ma soprattutto, come diceva la Gabanelli, con l'aiuto delle leggi. Questa la capacità di intimidazione che hanno gli avversari dei giornalisti che si impegnano e tentano di descrivere la realtà così com'essa è eccessiva. Quello che mi domando, questa manifestazione ad esempio pone in prima evidenza il problema gravissimo di queste cause civili che impediscono ad un giornalista di fare il suo lavoro fino in fondo. E poi se ci si batte per la libertà di stampa è un concetto molto vago. Io credo che questa manifestazione doveva porre nel suo lead la battaglia di tutte in Italia della libertà di stampa, che è la privatizzazione della RAI. Cioè, noi stiamo assistendo ad una spartizione continua, più potente mezzo che quello della televisione in Italia, perché per definizione appartiene al potere pubblico. Ora, la stampa e quindi i media sono sorti, e se c'è stato qualche film che l'ha identificato con una frase molto efficace, come quarto potere, sì, cioè come uno strumento a servizio dei cittadini e contro gli altri poteri istituzionali. Se gli altri poteri istituzionali posseggono l'arma atomica, cioè la RAI, evidentemente il livello di libertà nel paese è più basso. Poi aggiungo e concludo rapidamente: sullo scandalo della RAI c'è anche l'obbligo di pagare il canone. Io il canone lo sto pagando da 32 anni, quindi ma Magnaschi, ma qua è una rivelazione. Due giorni fa l'onorevole Caparini della Lega ha detto no, io non lo pago da anni, adesso dice che non lo paga. Non sono del tutto d'accordo. Io credo che al cittadino vada riservato almeno la libertà di decidere dove informarsi. La mia è una battaglia politica, non di queste di metodo, non di queste che finiscono in niente. No, ma voglio dire, sarebbe come se io andassi in edicola e c'è lo Stato che pensa che io debba acquistare l'Osservatore Romano o l'Unità. Io vado in edicola e punisco i giornali che non condivido o premio acquistandoli i giornali allora, che questo è un tema molto interessante. Siddi, chiedo, è una manifestazione per la libertà di stampa o contro Berlusconi, come qualcuno ha detto criticando? Siddi. Stampa. Se poi in questa fase il presidente Berlusconi chiama ogni giorno i giornalisti farabutti o delinquenti, invita gli investitori pubblicitari a non dare pubblicità, a non fare inserzioni sui giornali che considerano nemici perché osano fare critiche al governo, ci sono dei problemi che si aggiungono, ma la questione che è in campo è esattamente quella che ha posto all'inizio Magnaschi poco fa e Al Gabanelli. C'è una situazione in cui la libertà di stampa è garantita dalle leggi, dalla Costituzione della Repubblica, che è una delle migliori istituzioni del mondo. C'è una condizione oggettiva in cui di dare conto fino in fondo di tutte le cose che accadono, quando queste disturbano il manovratore, sta diventando sempre più problematico, perché non tutti possono affrontare azioni legali risarcitorie milionarie, anche se sanno quasi tutti che possono vincerle, ma però su questo mi scusi, occorrono dei soldi. Su questo, come ha detto Magnaschi, non ho letto tantissimo sulla manifestazione, beh, che insomma, punta mi pare, su quello. Mi pare però che sbagliate, avreste dovuto leggere, non perché voglio citare me. Forse il manifesto, forse stampa, il manifesto la mia della stampa, nel Corriere della Sera, sabato scorso, si è occupato dell'argomento con una interessante proposta di Ferrarella. Domenica mi ha interessato, certo. Io ho sostenuto non solo quella proposta, ma ho aggiunto qualcosa, ecco, che andava in direzione proprio della linea anglosassone da questo punto di vista. No, ma su questo temerarie. Anche diciamo la proposta che ha fatto Luigi Ferrarella è quella da cui un po' ha generato anche la risposta di Milena Gabanelli, rispondeva, era proprio incentrata su questa proposta che ha lanciato Ferrarella, diciamo, che ha lanciato come dibattito sul Corriere della Sera. Bianco o nero? Il sondaggio di Radio 24. Allora, dovete votare sul sito radio24.it alla sezione bianco o nero. Appunto, vi chiediamo, visto Berlusconi ha definito una farsa la manifestazione di domani per la libertà di stampa, che ne pensate? Voglio andare velocemente da un ascoltatore. State chiamando in tantissimi, lo spazio è quello che è. Francesco da Milano, buongiorno. Buongiorno a voi. Lei che dice? È l'eletto per parlare da nome degli ascoltatori, dica. Il fatto che Berlusconi dica che l'Italia è il paese con più libertà di stampa del mondo mi fa ridere, nel senso che abbiamo visto ieri all'apertura quel filmato della BBC. Mi chiedo se qualcuno osa immaginare su un qualsiasi canale Rai un programma del genere riferito a Berlusconi. Diciamo, io l'ho preso dalla coda, nel senso sono arrivato un po' in ritardo, l'ho visto dopo questo della BBC, me lo sono perso. Però c'è su internet, c'è su YouTube. Ho visto quello che contava, che è andato in onda ieri. Inutile, cioè, ieri tutti aspettavano la Daddario, non mica la BBC. Comunque, dica sul tema punto, libertà di stampa. Il punto è che non si tratta tanto di libertà di stampa, perché quella, come vi ha detto giustamente, è garantita dalla Costituzione. Si tratta della libertà dei giornalisti, come ha detto la Gabanelli. La libertà dei giornalisti. Il problema è il fatto è che, come nel sistema, chiamiamolo radio-televisivo, l'asservimento, Fede, Minzolini, tutta questa gente sui Vabbè, porta carriera. Vabbè, l'opposizione insomma, porta querele. Vabbè, grazie. La sua posizione è chiara. Milena Gabanelli, voleva rispondere anche a quello che diceva Magnaschi. Forse la questione è anche la mancanza di editori puri in Italia, spesso se ne dice tanto, cioè dove c'è poi un controllo da parte dell'editore, magari si intreccia con la politica anche sul giornalista. Lì la libertà è difficile da sostenere. L'editore sta parlando con sì, me? Sì. Allora, l'editore puro, ma più puro del servizio pubblico, no? Cioè, non dovrebbe esserci nulla di più puro del servizio pubblico, eppure cosa c'è di più contaminato del servizio pubblico? Insomma, è un paese, io credo, complesso nella sua struttura ed è via via sempre più degenerato. Quindi andare a cercare a monte l'editore puro credo che sia complicato, mentre la professione di giornalista è una professione che scegli. Quindi, pertanto, vuoi tu indirizzare il tuo piccolo esercito di giornalisti nella direzione che ti pare a te, facendo un altro mestiere, perché poi non necessariamente l'editore è anche giornalista, ma di solito fa il banchiere, fa l'imprenditore, fa il politico, fa un'altra cosa. Come fai ad imporre ai tuoi di andare in una certa direzione se loro non ci vanno? Certo. Diventa complicato. E questo è un mestiere che scegli, come il medico, cioè non ci arrivi per caso. Non dice, ho fatto il geometra, la cassiera, oppure, non lo so, il conduttore di un treno. Cioè ci si arriva, almeno per quel che mi riguarda, mi capita di fare stage nelle scuole di giornalismo e li vedo tutti animati da una passione civile, molto forte. E poi che succede? E poi, che a un succede certo poi? Punto si degenera. Perché? Perché tu metti una mela marcia in un cestino, la lasci lì E nel tempo. Il cestino. Lei. È da buttare, insomma. Magnaschi e Siddi. Magnaschi, vogliamo tornare sulla questione. Beh, l'ascoltatore diceva sempre il problema sta nel corroborava questa tesi, sta nei giornalisti, insomma, nella qualità. Facciamo un po' di autoanalisi a questo punto. Beh, insomma, i giornalisti. Io sono un estimatore di una frase di Brecht che diceva beati quei paesi che non hanno bisogno di eroi. Quindi allora per non avere bisogno di eroi bisogna stabilire delle regole, costruire le regole che consentono alle persone normali, non eroiche, di poter svolgere il loro mestiere fino in fondo. Siddi ha detto che sulle cause civili è intervenuto, infatti il suo intervento l'ho molto apprezzato, però è intervenuto dopo che a 3 giorni di distanza di una manifestazione che era già stata indetta e poi dopo era stata rinviata perché c'erano stati i morti di Kabul, e non figura. Il problema come i giornali sono è il problema di gerarchia prima ancora che non di contenuto. E quindi il tema della totale privatizzazione della RAI è un problema di rispetto nei confronti dei cittadini e di rafforzamento del potere dei giornalisti. La visione che fa capo alla RAI, pubblica, cioè il servizio pubblico, mi fa venire la scarlattina. Il servizio pubblico sarà la scuola, l'università. Ma la stampa deve essere libera, quindi bisogna allargare al vertice gli elementi di libertà. Si è parlato ad esempio qua dell'editore puro. Anche su questo, cioè, si coniano delle parole belle e poi ci si gira dentro tutti ben soddisfatti. Prendiamo un fatto di ieri, non di 15 anni fa. Parliamo di un grande editore, il più grande del mondo, si chiama Murdoch, e ha detto, comunicato, che d'ora innanzi 2 milioni di copie in Inghilterra non sarà più liberista come laburista come l'è stato fino all'altro giorno, sì, ma sarà favorevole. Ecco, un padrone ha deciso per tutti, e non è in Italia, è in Inghilterra, quel paese che noi idealizziamo troppo. Ieri sera Santoro ha fatto un autogol clamoroso mandando in onda uno spezzone di una trasmissione che mi faceva venire il vomito. Se un servizio pubblico manda in onda delle trasmissioni basate sulle parolacce, sulle allusioni pesanti, è una cosa, le Iene sembrano delle educande rispetto a quello che io, siccome ho un minuto, vorrei andare da Siddi e chiudere con una domanda veloce a Milena Gabanelli. Siddi, quante persone ci sono domani? Effettivamente lei ha posto il problema, le querele eccetera, però non è nata così, insomma, come manifestazione. Mi dispiace molto, mi dispiace molto questo che voi state dicendo. Tutto nasce dal DDL Alfano, nasce da un disegno di legge che vuol negare l'informazione ai cittadini su come procedono le indagini giudiziarie, che vuol negare un pezzo dell'informazione spesso decisiva per formarsi le pubbliche le opinioni delle persone. Onestamente, da qui siamo partiti. Noi dovevamo fare una mozione già a giugno. Il capo dello Stato è intervenuto, ha spinto il Senato a congelare un po' quel disegno di legge, a fare una riflessione supplementare, a dire che forse c'è un problema di libertà che si pone quando si vieta di dare conto di come procedono le indagini, quando si vieta in origine alla stampa di esercitare il suo potere di controllo dell'attività dei poteri pubblici e anche della stessa giustizia. Questo è il punto da cui siamo partiti. Poi ci sono le cose milionarie. Nel mese in cui tutto questo è andato nell'organizzazione dell'amministrazione, è scoppiato di tutto: le invettive di Berlusconi, sì, l'attacco querele, ai portavoce dell'Europa, l'attacco ai commissari europei. Vengo da Bruxelles, dove ho trovato un clima sconcertante e di grande irritazione tra tutti. No, certo, quindi si è allargata, allora, nelle la motivazioni. La manifestazione è questa, purtroppo. Si va per luoghi comuni, questo è il difetto della stampa, della televisione e dei giornali. Si sceglie un titolo, ciò che fa cassetta, ciò che fa audience, ma l'informazione non è solo audience. Devo chiudere con Milena Gabanelli. Io non ho capito, mi sono perso qualcosa, ma questa tutela legale al Report arriva o non arriva? C'è o non c'è? Ci sarà o no? Settimana scorsa l'abbiamo rispuntata, cioè ci sarà, quindi sì. Per questa sera per ora per questa serie, sì, no? Si naviga un po' a vista, capisci? Va bene, allora ci fermiamo qui ringraziando tutti. Ringrazio davvero Milena Gabanelli, Franco Siddi, segretario dell'FNSI, Pierluigi Magnaschi, editorialista di Italia Oggi e Milano Finanza, ex direttore dell'ANSA. Ci fermiamo, votate sul sito. Alessandro Marco Tulli in redazione, Peter Bescapè in regia. Ci ritroviamo lunedì mattina alle 7:30.